Buongiorno Willy, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. 25 marzo del 74, Golden State 143, Portland 120. Il mattatore della gara è il grande Rick Barry, 64 punti con 30 su 45 dal campo, 10 rimbalzi, 9 assist e 5 recuperi. Una partita quasi perfetta. Rick Barry, che non è molto ricordato come giocatore NBA, secondo me nel basket che contava, cioè il nostro, ampiamente tra i primi 10 nel ruolo tutti i tempi, e ci può anche stare. Buongiorno Paolo, grazie. 8:07 minuti, e come che ci può stare Rick Barry, un giocatore completo, perfetto, un esterno con delle capacità tecniche infinite, immense, un atleta, un giocatore, un'intelligenza cestistica, una capacità di conclusione per prendersi tiri giusti al momento giusto. Certo, 45 tiri non sono pochi, ma quando ne metti 30 vai un po' a criticare una prestazione di tale importanza. Quindi, per quanto riguarda questa palla 2 che da inizio al multigruppo odierno, la formazione è completa. Paolo Onofri da remoto, Pietro Rossi qua in diretta con me, buongiorno. Buongiorno coach, buongiorno. Buongiorno a te Rookie of the Year, la matricola dell'anno. E a proposito di matricole, il primo motivo di conversazione, anche se ne avremo diversi per quanto riguarda il multigruppo di oggi, è sul March Madness della NCAA. Primo quesito che magari è più rivolto a Paolo, visto che insomma una non pallacanestro odierna non la sto più seguendo, è insomma sapere se questa poca serietà di una non pallacanestro ha coinvolto anche la NCAA, cioè se questo continuo far passi, se questa superficialità, se questa spettacolarizzazione esasperata è diventata motivo anche nei college per avere una parte da protagonista, o c'è più attenzione, diciamo, a uno svolgimento cestistico almeno accettabile? Allora, a livello di gioco io ammetto anzi di essere relativamente digiuno sull'NCAA, sulla March Madness. A livello strutturale però ho letto spesso di critiche alla tendenza che c'è nel college attuale, ossia degli one and done. Cosa cioè? Vuol dire? Gli one and done, gli giocatori NBA degli ultimi, fai dal 2005-2006. Sì, hanno anni tremendi. Si è persa bene o male la tendenza di stare al college più anni. Ah, e okay. Quindi one and done, fai un anno e hai finito, one and done. E manca la scolarizzazione che molti giocatori invece ricevono quando stanno più anni al college. Ci sono esempi storici, no? A me in questo momento viene Tim Duncan, che entra in NBA vecchio, sì, ha 23 anni, però ha dei fondamentali che la metà della Lega ai tempi non aveva. Ah, certo. Più recentemente c'è il caso di Lillard, che è una guardia di tiratrice molto forte, che lui entra in NBA nel 2013 con 4 anni di college e al secondo anno è già ai livelli di un All-Star. Molti giocatori ora entrano che hanno 19 anni, 20, hanno fatto un anno di college, lo hanno fatto male. Oltretutto. Esatto. Hanno questi grandi potenziali atletici, però gli mancano fondamentalmente tutte le basi e non sanno palleggiare con la sinistra. Cioè c'è un terzo tempo di sinistro, questo esatto, sconosciuto. Mi viene in mente Jaylen Brown, all-star, fortissimo giocatore dei tuoi Celtics attuali, che però con la sinistra non sa palleggiare, e forse un paio di anni in più credo. Al college li facevano bene. Un pochino sì, Pensa North Carolina o Duke negli metà anni 80 con Sam Perkins, Michael Jordan, Kenny Smith, James Worthy, la vera star di North Carolina tra l'altro, esatto. Era James Worthy per quanto riguarda quella formazione incredibile, una tecnica, che dire, specchiata è un eufemismo. E la prima domanda che mi sono posto è, anche nella NCAA, allora l'indifferenza si trasforma in una poca frequentazione, ecco, per esatto. Quanto riguarda il campionato che conclude con il March Madness. Cos'è il March Madness? Allora, tanto per precisare la sensazione USA in ambito cestistico, la NBA già ai tempi, poi adesso è diventata ancora di più, anzi unicamente un circo se vogliamo, ma è proprio lo spettacolo, è il momento in cui le famiglie, poi certo vi sono i tifosi, ma siamo più noi tifosi dall'Italia o da altre parti del mondo, perché per quanto riguarda la franchigia, sì, una rappresentazione ovviamente vi è, ma soprattutto è un aspetto d'aggregazione per quello che è un totale, un insieme che non è unicamente legata a un'appartenenza di tifo. Ecco, l'appartenenza di tifo negli Stati Uniti d'America e nella NCAA, uno è più legato alla squadra di college della propria città, che so, piuttosto che alla franchigia NBA, per la quale magari giustamente ha una simpatia, ma non è che sia orientato in maniera, cioè il cuore batte sempre più per il college. È per quello che alcuni aspetti ci sfuggono magari a proposito di interpretazione nello sport, che è completamente diverso negli Stati Uniti d'America. Cos'è il March Madness? La pazzia di marzo, è il momento delle finali, poi ci sono le Sweet 16 e mi pare che i primi di aprile avremo campione NCAA. C'è un tabellone estesissimo, sì, tra sia 64, 128 enorme, arrivato al momento del Sweet 16, ci sarà poi un'eliminazione diretta per portare alla squadra campione del torneo NCAA 2024. Un po' di musica, poi torniamo aspettando anche il parere di Paolo Nofri e il vostro al 333-180-9494. A tra poco. Ti abbraccio, bravissimo, ottima analisi, sono d'accordissimo. Personalmente il college basket oggi come oggi è più divertente dell'NBA, perché almeno vedi un gioco di squadra, proprio attacco e difesa corale, non c'è il tanto go to guy o la superstella, sono tutti, giocano tutti assieme, però i giocatori iniziavano a scappare dal college anche negli anni 90, eh. Le vere stagioni del college, l'NCAA che contava, era degli anni 80, andare indietro, dove si rimaneva per 4 anni, soprattutto si studiava e si imparava qualsiasi cosa per diventare un professionista. Esatto, Willy, si rimane attaccati al proprio ateneo per sempre. Io vedo su Facebook le amicizie varie che ho con i vecchi giocatori di un tempo, gente anche importante come Sam Vincent, Jay Vincent, Scott Williams, e quando arriva la March Madness diventano veramente pazzi per il proprio ateneo, il proprio college d'appartenenza, si vestono con i colori e diventano veramente quasi degli ultras. Anche Paul Mokeski impazzito per la March Madness, li seguo tutti su Facebook e sono veramente in ecstasy. Dell'anno, Pietro Rossi, hai avuto l'approvazione di un la benedizione di Paolo, eh. L'enciclopedico Paolo Onofre. È vero, Paul Mokeski, una seconda o una terza linea. A me piaceva come giocatore, dico la verità, è questo centro di quasi 7 piedi, molto presente, molto fisico, ma allo stesso tempo come backup per poter dare a una linea di centri ai tempi, a Milwaukee, mai così importante o tra le prime. C'era Alton Lister, molto atletico, anche lui presente sui social, un lunghissimo progetto di 220 Randy Brewer, che purtroppo tal progetto è rimasto, e poi Paul Mokeski, questo enorme, questo bisonte, dalle capacità tecniche però assolutamente importanti, e non era unicamente grande e grosso, direi che fra i tre forse. Milwaukee era più una franchigia da esterni, ricordiamo il grandissimo Sidney Moncrief, Marcus Johnson, la realtà più simile a Julius Irving, se vogliamo, per quegli anni ci potevano essere dei parallelismi con The Doctor, oppure Junior Bridgman, tiratore, swingman, difensore, giocatore intelligente, sesto uomo perfetto. Poi arrivarono anche Paul Pressey, che è stata la quintessenza dello swingman, e un realizzatore, un tiratore, come Paul Pierce. Anzi no, scusate, Ricky Pierce. Esatto. Okay. Ricky Pierce. Paul Pierce chi è? Perché lo sento nominare, Paul ma non Pierce, l'ho mai visto giocare. Captain and Truth, il simbolo dei Celtics da ecco 98-2014. Forte. Sarei curioso di sentire cosa ne pensa Paolo. Secondo me meno forte di quanto lui pensa di essere. Ah, quindi molto supponente. Sì. Poi fortissimo, ha vinto un titolo, certo. Finali di MVP delle finali, forte. Però un gradino, due gradini sotto i vari LeBron, Bryant, okay, di quel okay. tempo lì. Quindi mi scuso per questo refuso che mi ha portato a confondere Ricky Pierce, tiratore, realizzatore, giocatore molto forte dei Milwaukee Bucks dell'epoca. Sometimes a memory can bring you so much joy and so much pain. But a memory is all I have to keep me working through my day. And in these days, it's so hard to keep from letting out a tear. Ah, memory is all I have to let me know that you are here. Frankie Wilson con questo remix dei Quantic Soul Orchestra per True Tap Record. Alterniamo Rare Groove con sonorità new jazz più elettroniche. Una pazzia di entusiasmo, quella del March Madness di ex atleti che restano legati al loro college, a una pazzia insana, malsana, quella pazzia che purtroppo mi fa addirittura difendere degli allenatori, cosa veramente impensabile per me. Non avrei mai detto che le mie parole fossero a difesa di allenatori. Beh, non esageriamo, certo il mio rapporto non è mai stato così idilliaco, se vogliamo, che poi fino a un certo punto, perché alcuni allenatori, beh, potrei citare Alessandro Cantelli, Gianluca Pocaroba, il grande John Fulz, Stefano Pillastrini, e poi ne sto dimenticando qualcuno, non me ne voglia, ma ho avuto allenatori veramente molto importanti. C'è da dire che anche un contraltare da altre parti, potrei nominare questa Hall of Shame al contrario, ha contribuito, e al contrario vediamo quello che sta succedendo purtroppo dalle nostre parti, il caso di cronaca, anche se parliamo di calcio, e pensate, la partita era di ragazzini, cioè categoria Pulcini. Un allenatore allontana per un attimo un giovane atleta in quanto gli scarpini si slacciavano sempre. Oh, basta, adesso vieni qua un attimo che li mettiamo a posto una volta per tutte. Il padre pensa che sia una sostituzione, si avvicina al mister, in questo caso perché stiamo parlando di calcio, e tira una testata sul volto all'allenatore, portandolo all'ospedale con una prognosi importante. Insomma, è veramente inaccettabile tutto ciò, è gravissimo, questo è indifendibile, da condannare addirittura questo atteggiamento che molti genitori hanno nei confronti di dirigenti e allenatori. Pensa cosa arrivo a dire, Pietro, difendo dirigenti e allenatori, per cui veramente siamo arrivati oltre. Non è che avere un figlio dà l'autorizzazione a fare tutto sempre, comunque e ovunque. In questo caso l'atteggiamento del genitore sconsiderato e soprattutto violento, inaccettabile, ha portato questo mister col naso fratturato e non solo a giorni d'ospedale, a una prognosi importante. Quindi insomma direi proprio che siamo passati da un estremo all'altro, e non è un caso isolato, No, non anzi. È un caso isolato purtroppo, L'atteggiamento dei genitori sin dai tempi in cui, ricordo, metà anni 70, quando iniziai a giocare a pallacanestro, certo, però diciamo che vi era assolutamente un'attenzione, insomma, per dire, io non ricordo i miei, poi mio padre scomparì poco dopo, ma anche mia madre stessa, io penso che abbia visto, non so se ha visto una o due partite, anzi lei non era molto d'accordo che io giocassi a pallacanestro, perché mi affaticavo, sudavo, mi stancavo e poi insomma a cosa serve giocare a pallacanestro, no? Quindi un atteggiamento completamente diverso, addirittura oltre in questo caso, siamo nel negativo dall'altra parte. Veramente abbiamo fatto una puntata sull'equilibrio, è così difficile da trovare un equilibrio sia nel mondo dello sport che nella vita. Boh. Vi parlerò nella seconda parte del Move to Groove di un episodio a tal proposito di una delle due partite a cui ha assistito mia madre. La capisco che poi non sia più venuta, anzi tutt'altro, e comunque riguardante a tutto ciò mi rifaccio a una conversazione che ho avuto con un amico che ha vissuto lungo tempo in Inghilterra. Pensate che molti avvenimenti o rassegne sportive, ovviamente di calcio, siamo nel Regno Unito, erano vietate ai genitori. Ma giustamente. In questo caso, giustamente. Ai tempi quello che potevo criticare dei genitori era l'aspetto di infiltrarsi. Ecco, quello c'era, quello di essere quello che invitava a cena l'allenatore, quello che parlava dopo partita con l'allenatore, ma mai si era arrivati a pugni o testate in faccia, no? Questo mi sembra veramente oltre. Che poi una testata non è un pugno, cioè no, secondo me è una differenza sottolineare. No, infatti io ieri ci pensavo, dico, ma questo è completamente fuori di sé. Devi essere proprio spento. Ha rovinato per in maniera importante una persona. Non è bello, cioè è qualcosa di allucinante. Mio padre invece era l'esatto opposto, siccome io da ragazzino ero più largo che alto, cioè facevi prima a saltarmi che a girarmi intorno, diceva: tu devi fare dello sport, non mi interessa qualsiasi sport sia, ma tu ti devi muovere. Beh, un salutista. Mio padre, che da atleta, che è stato, fatto mille sport, è stato anche semiprofessionista come calciatore, devo per forza far qualcosa. Posso dire che l'allenatore e il genitore sono il primo e secondo danno dello sport giovanile. Bravo! Genitore e l'allenatore sono le due superpotenze. Il bambino è il territorio conteso, ecco, se vogliamo. Esatto. Per fare, visto che facciamo in questo bipolarismo. Hai capito? Vostro figlio non è Michael Jordan, non è Ronaldo, non è Magic Johnson, anzi io sono il primo ad augurare una carriera meravigliosa e strepitosa, però insomma iniziamo ad avere la giusta misura, soprattutto per il piccolo, io direi. Beh, certo. Genitore dirigente, c'era anche questa figura tremenda, genitore dirigente, il genitore costantemente presente, il genitore che magari, a volte io ho visto anche dei genitori far segare l'allenatore parlando con il presidente, la dirigenza, ho visto delle robe, vabbè, purtroppo c'è anche questo, io ne sono ovviamente contro e denuncio per quel poco che posso fare con il Move to Groove, ma con una grande energia porterò sempre avanti una coerenza, secondo me, nel mondo dello sport, che deve essere sana e vicino agli atleti più giovani. Alle 8:30 minuti che scoccano in questo momento, partiamo con la pubblicità, poi rientriamo e procediamo sul nostro parquet del martedì. A tra poco. Allenatore, dove lo mettiamo, Willy? A me è capitato anche questo. Saint-Germain riprende la voce di Johnny Hooker dal capolavoro Tourist per il DJ francese Ludovic Navarre, edizioni Blue Note. E ve l'ho detto che tra il vecchio e il nuovo, tra la ritmica e la forza del funk, il Ray Groove anni 60-70 e anche le sonorità più elettroniche, magari più vicine ai giorni nostri. La colonna sonora di oggi al Breakfast Club Move to Groove con Paolo Nofri, Pietro Rossi, che ha un aneddoto molto particolare a proposito di allenatori, ma soprattutto genitori in questo caso. Attenzione genitori all'ascolto, non fate questo, questo come si dice, no? Non ripetete. Mettetelo a casa vostra. Esatto. Ecco. Anno del Signore 2010, giocavamo a calcio, io sono nel 97, quindi avevamo, no meno, scusami, era 2008, avevamo 11 anni, 10. Fischiano un calcio di rigore a favore della nostra squadra, era un campionato di calcio, non mi ricordo neanche se si giocava già a 11. Un genitore urla dagli spalti al preposto tiratore: se lo sbagli torni a casa senza cena. Cosa è successo? L'ha sbagliato. Ecco, già questo rende l'idea, no? E già poi tornare a casa senza cena è abbastanza punitivo. Mi sono sempre chiesto, crescita poi, chissà se poi davvero non gli ha dato la cena. L'unica amichevole che vide mia madre, avevo 11 anni, ero mini basket Virtus, centro sportivo record, mi ricordo, quello che ha il pilastro, mi pare si chiami record, dove c'è anche la piscina, così. A me allenava questo che meritava il processo di Norimberga, ci ho pensato sì, questo no, ma anche per idee, questo meritava il processo di Norimberga con l'esecuzione, ci ha pensato la natura poi a fare il suo corso, però è stato purtroppo mio allenatore. Allora mia madre ovviamente disinteressatissima, però ho giocato parecchio, ero molto accaldato, come al solito io a farmi la borsa, ci ho sempre pensato io, però poteva capitare, mi ero dimenticato un asciugamano, ecco, no. C'è quel tratto dagli spogliatoi, neanche spogliatoi, quel tratto, il corridoio lontanissimo dagli spogliatoi, mia madre mi tira l'asciugamano, tipo presente Kevin McHale, che sì, prendilo al volo, mi tira l'asciugamano. Allora questo si rivolge a mia madre: signora, cosa fa qui, si vergogni, ci sono degli uomini, ti rendi conto? Io ci sono rimasto così, mamma mia. A parte che era lontana almeno 30 metri dagli spogliatoi ed era sotto questa specie di corridoio, no, che portava, questo per dirti la mentalità quant'era diversa, quanto l'estremo all'altro. Vero. Si passava, eh? Vabbè, ovviamente me la sono legata al dito e al momento del vincolo a 13-14 anni fu pietra dello scandalo, perché rifiutai assolutamente il tesseramento Virtus in maniera molto decisa, con gesti anche importanti, del quale tirare la borsa ai piedi dell'avvocato Gianluigi Porelli. Per me quel gesto segnò molto la mia carriera, però poco importa, la dignità prima di tutto, assolutamente, indipendentemente dai percorsi sportivi. Questo è un aspetto che consiglio a tutte e a tutti, anche se adesso vedo i tempi che sono completamente ribaltati. We'll be right back. comunque sei sempre all'acqua di rose, perché ai tuoi tempi giravano dei soggetti che erano quasi dalla dozza, proprio da mettere in carcere e buttare via la chiave. Come minimo. C'era anche chi ha detto no a tutto ciò, assolutamente inaccettabile, soprattutto a livello giovanile. Poi anche in prima squadra certi atteggiamenti secondo me sono completamente inaccettabili e ingiustificabili. Alla fine poi mi è andata bene, perché è il momento del vincolo, dove io mi sono svincolato, perdonate il gioco di parole, e veramente rifiutare il tesseramento per la Virtus, allora sponsorizzata Sinudine, era un gesto quantomeno forte, se vogliamo, ha portato poi a un vantaggio, se vogliamo, una casualità, perché il seguito, diventando poi nella categoria allievi, sarebbe arrivato il primo anno di tale Ettore Messina. Beh. Ho schivato un'oliva da niente. Beh. Avrà vinto tutto quello che volete, ma ha rovinato giocatori del calibro di Diacci, Birindelli, Mordenti, Francesco Di Cesare. La lista potrebbe andare avanti con Cempini, insomma giocatori che probabilmente con un atteggiamento diverso da parte dell'allenatore avrebbero potuto condurre una carriera decisamente più luminosa. Sto parlando di talenti veramente molto dotati, sono finiti in depressione. Perché c'è gente che in questi regimi di terrore ci sguazzavano, ma c'era godeva. Molta gente che c'è rimasta sotto, cioè ha faticato poi a riprendersi, e gente che era anche piena di talento, e nel circondario bolognese un sacco di gente piena di talento non si è mai più ripresa da questi regimi qua. Atleti che dissero no, non sono stato l'unico, io forse l'ho fatto in maniera più spettacolare, poi diciamo che magari vista la statura ero un pochettino promettente, ecco, poi non voglio certamente decantare lodi, però tra quelli che hanno detto no, che poi ho ritrovato in questa piccola squadretta, la Vigor Basket, prima di passare ufficialmente in Fortitudo, era un ragazzo che ha iniziato assieme a me, Oscar Bianchi. Uno adesso è arrivato per così dire, perché la sua purtroppo vita è stata troncata da un male che lentamente l'ha consumato. Un giocatore, ma prima di tutto un giovane uomo molto, molto integro dal punto di vista etico, dal punto di vista anche del aggregarsi con le altre persone con correttezza, con una grande lucidità allo stesso tempo, una simpatia. è stato, seppur per breve tempo, un compagno di squadra, ma innanzitutto, come ho detto, in periodo adolescenziale, un amico molto importante. Purtroppo questa malattia l'ha stroncato così lentamente, contrariamente a quanto era lui sul parquet. Sfortunato, sventurato uomo, al quale ovunque lui sia mando un possa riposare in pace, quella pace che non ha trovato con gli ultimi anni, maledetta malattia che l'ha completamente mangiato dall'interno. Oscar, che tu possa riposare in pace. Giocatore moderno, lui pensa che nonostante la statura era impostato da playmaker, braccia lunghissime, mancino, giocatore veloce, un primo passo incredibile, una capacità di sfruttare il mismatch veramente molto molto astuta e forte, buon rimbalzista perché sai si confrontava con atleti più minuti, certo. Essendo un playmaker così alto, un giocatore atipico, per me molto molto promettente. Lui ha intuito prima che quel mondo lì non era esattamente, e lasciò la Virtus un paio di anni prima di me. Un giocatore, adesso ne sto facendo un identikit cestistico, ovviamente la statura più elevata, per Oscar era come persona che, come vi ho detto, non sempre per portare a elevazione chi non c'è più, però indubbiamente con un caloroso abbraccio in un altrove cestistico non ha fatto una grande carriera, ma sicuramente come persona lascia un ricordo di sempre e comunque. Hey good looking, what time you got? Say what? It's 4 o'clock. No, I didn't know it was after 3. Baby, my wife gonna kill me. Say, ask that fellow over there. Andavamo a giocare sotto il ponte di Via Libia quando ancora non era. Sì, andavamo a giocare nelle pause estive. Siamo stati tesserati per due società, la Virtus e la Vigor, che poi dopo mi passò alla Fortitudo l'anno successivo. Eravamo, insomma, anche se vogliamo, hai presente all'interno della squadra l'altro giocatore con cui ti senti. Quanto hai fatto tu oggi? 21? Ah, sì. Ah, ok, io 23. E lui mi mandava a quel paese, giustamente. Siamo giunti a conclusione, domani voltiamo pagina per Libri a colazione sui 103.1. Ringrazio tanto Paolo Onofri per il contrappunto a questa puntata dai contenuti misti, ma secondo me è da sottolineare. Il voltiamo pagina con Silvia Albertazzi sarà invece il protagonista per il magico mercoledì, l'imprevedibile martedì a colazione con il Breakfast Club termina qui. L'appuntamento con Liberi Dentro è imminente, anticipato dall'Edipeo Enciclopedico, la segna stampa, e come ogni martedì da non perdere il vinile della settimana curato e condotto da Andrea Gozza fino alle 12.30. Questo è il palinsesto mattutino di Radio Città Fuji. Grazie per l'attenzione, super mattiniere e super mattinieri dei 103.1, grazie matricola dell'anno, Rookie of the Year. Faremo uno speciale magari la prossima sui rookie dell'anno. Sui rookie dell'anno. No? Okay. No? Intanto grazie Pietro. Grazie a te Will. Appuntamento a martedì prossimo, rassegna stampa ore 10.30. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao.